Eolo è un progetto che è nato poco più di un anno fa, a febbraio del 2007, con l'obiettivo di fornire connettività a larga banda in quelle zone d'Italia che ancora ne sono sprovviste, perché manca fisicamente l'accesso alla DSL, in quanto Telecom Italia non ha ancora installato i relativi apparati nelle centrali. Eolo, utilizzando una banda e una frequenza pubblica a 5 GHz, con il protocollo, come tu giustamente dicevi, Hyperland 2, ci permette, attraverso l'installazione di una piccola antenna sul tetto delle case e degli edifici, di dare una connessione che è estremamente simile alle performance di una DSL, da 2 megabit di banda in su, arriviamo fino a 12 megabit. Oggi la vostra rete in quali zone è diffusa e quanto è diventata grande? Allora, diciamo che in questi ultimi 13 mesi abbiamo corso davvero tanto. Ad oggi abbiamo più di 60 ripetitori attivi, che in gergo si chiamano BTS, e copriamo quasi 1400 comuni in 4 regioni, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte e stiamo per entrare anche in Friuli, Venezia Giulia. Quindi questa è una tecnologia che non ha bisogno di licenze, così come sappiamo WiMAX. Esatto, è una tecnologia che funziona su una banda di frequenza definita pubblica. Pubblica non significa che non ha regole, nel senso che ci sono delle regole come potenze da rispettare e altri accorgimenti, ma che, fatto salvo questo, non ha bisogno di pagare delle licenze allo Stato.